chase and follow you. Per poco di tempo il suo animus, un fiume in piena. L'alzata del volume, grido a tanti via, dell'arena andrà in punto, per il mare, scrollando i due, sfuggendo gli scudi, strana libellula, alzo croci, anide d'onde, a creste sorbite, chiacque di seguiti, la coda del domino. Go!